619. Cavallucci di Siena. I dolci speciali a Siena sono il panforte, i ricciarelli, i cavallucci e le cupate. I cavallucci sono pastine in forma di mostacciuoli ovali della lunghezza di 4 centimetri. Quindi vedete che la figura di un cavallo non c'ha niente a che fare. E perché siano così chiamati, credo non si sappia neanche a Siena, di tre cose piena, di torri, di campane e di quintane. Con questa ricetta intendo indicarvi il modo di poterli imitare, ma non di farli del tutto precisi, perché se nel sapore all'incirca ci siamo, la manipolazione lascia a desiderare ed è cosa naturale. Dove si lavora in grande con processi che sono un segreto ai profani, l'imitazione zoppica sempre. Farina grammi 300, zucchero biondo grammi 300, noci sgusciate grammi 100, arancio candito grammi 50, anaci grammi 15, spezie e cannella in polvere grammi 5, le noci tritatele alla grossezza della veccia all'incirca, l'arancio tagliatelo a dadettini. Lo zucchero mettetelo al fuoco con un terzo del suo peso di acqua e quando è ridotto a cottura di filo, gettate in esso tutti gli ingredienti, mescolate e versate il composto caldo nella spianatoia sopra la farina per intriderla. Ma per far questo vedrete che vi occorrerà dell'altra farina, la quale serve a ridurre la pasta consistente. Formate allora i cavallucci, dei quali con questa dose ne otterrete oltre 40, e siccome a motivo dello zucchero questa pasta appiccica, spolverizzateli di farina alla superficie, collocateli in una teglia e cuoceteli in bianco a moderato calore. State molto attenti alla cottura dello zucchero, perché se cuoce troppo diventa scuro. Quando, prendendone una goccia tra il pollice e l'indice, comincia a filare, basta per questo uso.